Vero? Lui è bravo, ecco, diglielo che sei bravo. Sì, sarà stanco di sentirci. Comunque è simpatica, lo sa quanto è tolto. Eia, solo che, mamma mia, se avessi un giardino, cioè in appartamento non adotterei mai un cane. Forse di quelli piccoli, tipo cucciucci, i cani da lecca. E io non l'ho preso per essere un pincer. Me l'ha dato una di Alghero, che aveva 5 gatti, chissà macca, e lo stavano maltrattando quando era cucciolo, no? Ed era piccolo come un pincer, perché era cucciolo. Ma da voi, altro che pincer, è diventato, se trova quei gatti, se li... Cioè alla fine era un incrocio, non era un pincer puro, è diventato grande. E allora, non è puro, però è intelligentissimo, guarda, furbo. E io, la biocco è inadeguata lì. Lasciamola arrivare, dai. Io parlo di qualcosa però. C'è prima devo parlare. Ma tu cosa devi parlare? Cosa vuoi parlare? Qualsiasi cosa, argomento, che ne so io. L'Artalia ha lanciato l'argomento cani, ha lanciato con la carta e quindi tiriamo ancora con la carta. Inteso è Natali, forza, datti soldi, dacci dentro. Ma di cosa devo darci dentro? Mia vasca è accucciata, ti immagini? Oh Natali, ti volevo dire, tempo fa, quando abbiamo cambiato la parabola, che l'altra era rugginosa perché c'era 20 anni, ha avuto la cattiva idea, per cercare il satellite, di usare quel piccolo strumento con la lancetta, no? Che ti fa vedere il segnale del satellite e emette un bip quando lo becchi a fondo scala o roba del genere. Però mi aveva spiegato Pomponio, purtroppo io non l'ho letto, oppure me ne sono fregato. Quello, oltre a beccare i satelliti, beccava dai 900 MHz in su, quindi mi beccava in quella direzione, bene o male, entravano tutti i ripetitori cellulari, cioè è inutile fare un aggeggio del genere. Però doveva beccare solo le frequenze dei satelliti, invece prendeva un bel mondetto. Insomma, morale da favola, alla fine me lo sono puntato a casaccio finché è comparso il segnale, capito? E infatti, io senza strumenti né niente, in 5 minuti l'avevo piazzata in campagna. C'avevo, addirittura poi mi ho comprato anche un altro illuminatore e quindi ne prendevo due, prendevo sia ASA che 8 birri in campagna. C'avevo questo bel ricevitore tutto in acciaio inossidabile, ma lo sai quanto era bello? C'avevo anche lo sportellino, alzavi e c'era il coso dove mettere le carte. Guarda, era veramente bello. Dopo me l'ho venduto perché non si vedeva più nulla per il fatto che sai. Ah, l'ho preso, è un attimino. È della Telesystem, satellite Finder. Vedi, 950 ai 2000, 250 MHz. Cioè questo ovviamente va dopo l'illuminatore, no? Perché mi pare il satellite trasmette tipo a 12 giga, 11, 12 giga e poi l'illuminatore mi pare te la... è come un trasponder, te la abbassa la frequenza, no? Che va al decoder, giusto? E quello lì serve per cercare i satelliti. Si illumina e si muove la lancetta. Quando arriva a fondo scala lo prende e lo attenui, perché c'è una rotella per attenuarlo, e finché non lo prendi fondo scala proprio, e allora c'è il segnale, si usa così. Sì, ma è un pasticcio, cioè mi beccava segnali fantasma che poi erano tipo reti cellulari, cioè stava sempre suonandomi, alla fine proprio non è stato anche attenuando, di nessun aiuto. Cioè l'ho mossa a mano, bene o male la direzione, la sapevo, poi c'avevo il televisore, diciamo, affacciato qui sulla finestra che dà sul, quindi io vedevo lo schermo TV, capito? Come comparsa l'immagine, boh, si è raduto. Va bene, dai, riprendi ricca, ti mando una foto, Natalia. Oh, ce l'ho anche io, dovrei averlo in campagna, perché ce l'avevo qua ed è sparito quello strumentino lì. Sì, comunque Telesystem modello modello unico, vedete qua, oh. Vabbè, non è importante, mi sì, già è quello. Comunque beccava troppa roba, mi spiace, proprio non mi è stato nessun aiuto, anzi la Mondezza lo vedrà presto, lo vedrai. No, per vederlo la Mondezza lo dai a me, che io non so dove è finito il mio. Gli avevo fatto anche lo spezzone con gli affari che si avvitano, chissà che fine ha fatto. Infatti è venuto Fabio qua e ci ha attaccato prima a quello e poi un altro grosso che ne aveva lui. Quello sicuramente era migliore. Questo imbarcava troppa roba, sempre che non sia pure, no, difettoso no, magari, se no non avrebbe segnato nulla. Eccolo qua, sì. Comunque un oggetto inutile per me, cioè l'ho fatto a mano e l'ho fatto in pochi minuti. Altro che satellite Finder. Riprendi Riccardo. Marco, io non ho capito cosa storia, stiamo giocando a carte. Abbiamo rilanciato la carta del cane, la carta animali, adesso stiamo rilanciando carta satelliti. È una cultura. Devi fare una cultura, capito? Asco, il satellite bisogna saperlo piazzare, non è così. Asco, Natali. Sì, Natalie, basta beccare la direzione giusta, anche andando a tentativi, bene o male. Te l'ho detto, ho fatto molto prima, 3 minuti, cioè, a beccare, andando piano naturalmente, no? Verticale, orizzontale, altro che questa cosa qua inutile della... A parte il telesystem, quanto mi riguarda, almeno la decoder l'ha fatto sempre cagare. Scusa il termine, Erika, però... roba poco sensibile, cioè li mettevi i decoder di altre marche ed erano molto proprio più sensibili come ricevitori. Riprendi Ricca. No, fai con calma Marco, non c'è problema. Ricca, puoi aumentare la un po' la voce, perché ho difficoltà, cioè ti devo alzare molto di più il volume, non puoi fare niente. Adesso uno, due, tre prove, sta andando male, adesso va bene? Oddio, parla Natalia, fammi sentire. Guarda, 1, 2, 3 Marco. Ma c'ha il volume basso. Non so che microfono stia usando. No, vabbè, Ricca, fregate, lascia tutto com'è. Alzo il volume io e fuzzo prima, dai. E io aumento allora. Bene, male, no. Luca, avete parlato in due, Luca mi fa sordo, mi. Anche così, mi, senza il Gava Gava. Mi ha fatto sorgio pure a me. Sì, poi come attacca quel baracchinetto lì colto, quello mi fa sordo del tutto, è una cosa impressionante. Poi vabbè, noi siamo vicini abbastanza. Oh, ma come sta andando adesso, male o no? No, non male, però un po' più di modulazione non avrebbe guastato, così dai. Perché sto alzando a vedere se stava andando meglio. E sai cos'è, ho alzato anche il volume, quindi cioè, ho già toccato, no, già va bene così comunque, non tocchese. Ah, va bene. E Natalia, anche qua c'è lo spezzoncino, abbastanza rigido peraltro. Deve essere quel cavaccio cinese SAT, nero è lo spezzone. No, io gliel'ho fatto di cavo di televisione satellitare, gli ho messo quegli affari a vite, magari gli so spezzone, io non si. No, vabbè, ma anche questo le attacchi a vite, grazie, anche questo è cavo SAT, però è un po' più rigido di... A me è sembrato, no, già, beccavo i segnali, alla fine poi Io l'ho controllato, cioè trovando il satellite Hotbird, cioè riconoscevo i canali o quello che so. Ho provato ad attaccare questo, segnava fondo scala anche attenuando molto, e ce l'avevo beccato, però provando manualmente, dai. Inutile ripetersi. Anda bene Meda. Oh Natalie, mi QRX per me, un attimo, il bianco per me, arrivo subito e vado a mettermi la felpa, sto freddo. Eia. Esitta, sto perdendo quota, mi Natalie. Se no mi tocca farmi un altro caffè per stare un po' più attivo. Io me l'ho fatto poco fa dopo cena. Ehi, perché sai così, io anche due ne faccio, uno la mattina o la sera, però si dice che meno caffè si prenda meglio è. Vabbè che fa tutto male, no? Già l'abbiamo detto altre volte, tutto male fa, tutto ciò che è buono fa male, procura qua, tutto, anche l'aria che respiri, tutto. Poi questi dell'organizzazione mortale della sanità, prima mascherine, e poi adesso le mascherine fanno male perché perdono fibre, i guanti hanno fatto dietro fronte, no? I guanti non metteteli perché, non metteteli troppo perché fanno da veicolo. Cioè hanno detto tutto al contrario di tutto. Ma una, ne stavo dicendo una mica. E infatti io me la leggo al collo la mascherina e non emetto quando vado a portare il cane. Capito? A meno che non me ne venga qualcuno a parlarmi, a cosa no, me la metto la mascherina, tengo la distanza di sicurezza e boh. Natalino! Dimmi Ricca! Sai cos'è? Adesso, con questo baracchino, dirlo così, baracchino, adesso sta arrivando fra qualche settimana l'antenna, il cavo RG213, la metto su un palo di 6 metri sopra casa e quindi più i 3 metri della casa di altezza sono in tutto 9 metri, più tutto 16 metri che spacco i timpani. Mica salgo in campagna, no, e ti metto la portante da lì, salgo con Marcolino così mi dà una mano e ti mettiamo la portante da lì. È fresco tu? Oh, il Pomponio. Mia Pomponius. Buonasera a tutti. Tanto per cambiare Saturno, Antonè. Ma sempre Saturno sono io, come è possibile? Cioè con quell'apparecchio dovresti uscire bello limpido e la sento, sì, a me sembra satura, boh, tipo saturazione, ma sei liscio o sei peloso? Aspetta, e beh adesso va bene, alla fine così, cioè siamo un tiro di valla Antone, dai, è migliorata. E beh, come già mi racconti Antone? Niente, sto sentendo con Simone la verità, quindi a un certo punto sono una cosa all'altra. Stai spingendo con Simona? Non ho capito. Sventiando. Ah, e anche l'altro giorno avevo sentito un po'. Insomma, vabbè, ci vuole pazienza, dai. Quando uno non si sente bene, boh, bisogna avere pazienza. Che altro c'è qua? Riccardo, sei ancora? Sono scappato, ciao Antonello. Ciao, anche te ben sentito. Sono ascoltato. Oh, che bello, guarda. Quando mi scrivo così, mi mandi i soldi. Aspetta, cosa ha scritto? Senza ricetta. Ah, che bello. Antonello, ma cosa c'hai? La busta alle patatine accanto? Se c'è le patatine a caldo. Tanto che stai sempre facendo rumori. No, no, non c'ho niente. Grazie a Dio. Sono in salone più che altro, capito? Adesso poi lo metto in camera la tappata e quindi soffriti i casini. Era un po' di rumore tipo PTT o cavo spiralato o spinotto del mic, da un po' di... Ah, quello sì, aspetta un attimo, cazzo. Ci possiamo andare a cazzo, che non sono già in piedi 2 minuti. Eia dai. Oi oi. Oh, Natalì. Un po' di ormai che entri alla prima che esca bello limpido, sempre o è saturo o c'è scariche o è distorto. Aspetta un secondo, 2 minuti. Ehi, fai pure Antonio, già siamo qua. Oddio, sono le 9, io vado a tentare di vedere qualcosa in TV, però inizia fra un po', non è adesso. Aspetta, che film era oggi? Porca miseria. Canale 66. Ma si può vivere così con questa memoria? Boh. Mannaggia la pupazza. Riprendi Natalì. Ti piace pompare? Chi è? Avanti. Buonasera. Un giorno a Pompogno lo pompano. Chi è? Avanti. Ben sentito. Il segnale, grosso modo, Santiago 6 modulati. È radio buona. Ah, Manuel Ginko, sì, ti ho sentito l'altro giorno. Mi pare che era un vecchio CB anche, no? Di tanti anni fa, io ricordo questo nominativo. Io. Sì, Marco da questa parte, zona Viale Trento. In compagnia di Natalino, Riccardo, Roberto, sei rientrato, vediamo. Sono andato adesso, proprio questo istante. Chi c'è adesso? C'è Ginko, Pomponi è entrato di sfuggita, ma adesso ritorna. E io vedo, Roberto, vedo nel futuro, so già quando devi entrare. C'ho la sfera di cristallo. La sfera di plastica. Ok, salutato di Riccardino ancora. Sì, era qui, mica. Ginko sarebbe Manuele, così. Eia. Vabbè, c'ero anche io, Roberto. Vi saluto tutti che me ne faccio in quei ritti, dai. Ciao a tutti, che me ne vado a vedere un po' di TV. Ciao Natalì, ti ho sentito di sfuggita adesso. Prima c'eri, quando c'ero poco fa, mezz'ora di più. Ok, buon tutto, buon ritti, buona carica se devi farlo e buona TV se la devi guardare. Avanti Marco. Ciao Natalino. Ci sentiamo quando capita, fra un'altra settimana. Quando capita, dai. Buon tutto. Riprendi Emanuele, dai, facciamo girare i pochi. Io fra poco poi vado. No, non mi sono ricordato che finisce stasera. So il canale ma non mi ricordo il film, adesso piglio il giornale. Vai Michele, beh sì, buonanotte. Emanuele. Aspetta, comunque Emanuele, controllato meglio, tu arrivi in modulato 7. Santiago 6, modulato Santiago 7. Vai Roberto. Aspetta, devo controllare anche io, prova a parlare Emanuele. Vai! Comunque sei Santiago più di 7, con i picchi arrivi quasi a 8, la radio diciamo 3-4. Ho parlato sopra qualcuno, Gandumo. Avanti, doppio rutto. Ah, e te siamo avviti, buonasera a tutti, sono controlli, break candy. E non senti. Buonasera a tutti, scusate, mi sono allontanato un attimo, saluto a doppio room, se ho capito male Roberto. Sì, sono rientrato, non ti ho sentito Gianni perché stava parlando sia, come si chiama, Natalino che Marco e poi, non Gavino, come si chiama, Emanuele giù un po' lontano, ce l'ho sentito basso, ma te non ti ho sentito. Ecco, magari non stavo uscendo di radio. Avanti Emanuele, buonasera. Registrato il break comunque. Cosa stai usando? Un garage, dalla modulazione. Sta usando un apparecchio tedesco. La verità. Avanti Fabio, scusa, ciao a tutti. Se ha fatto il break. Scappa produttori, si deve fare la ruota e niente, saluto a giro, dai. Ciao Fabio. No, me lo dire, di nuovo la portante. Fabio, manco entrato, portante su di te. Peggio per lui, io se voglio lo schiaccio. No, a meno che qualcuno che non stia uscendo, ma lo fa a colpi, fa ta, ta, come parli. E beh Fabio, ma l'antenna sul tetto ancora non l'hai messa? Sì, e beh, sul microfono. Negativo, ancora no, dobbiamo fare la spedizione, però un po' piove, un po' si può, un po' non si può, un po' ci sono, un po' non ci sono. Ehi, sta allungando, che a me non dispiace, perché la tenda più lunga magari funziona meglio. Fabio, non ho parole. Robè, tu l'avrai sentito, la solita portentina tipo Santiago 7, ta-ta-ta, non ho capito niente. Robè, fai da ponte. Io l'ho capito, detta. No, qua passa tranquillamente. Questa portante forse è bassa, non lo so, sarà dalle tue parti, qua no, non li fa niente. No, quello che mette la portante, Fabio, sei troppo forte, la passi. Buonasera Toto, Gio. Ciao mi burattonina, da. Ciao Tony, buonasera. Ciao Ponfossi, ciao Roberto, ciao Riccardino, ciao Gianni, Pulgare, ma mi sente che sono tanto. Sì, ciao Tony, c'è anche tuo nipote, arriva un po' bassino, però rilanciamo e poi c'è anche doppio rum, dopo lo facciamo ripassare. Avanti Emanuele, giù. E che portate? Cioè, ma qua è basta, Santiago 7 la portate. A meno che non sia tuo nipote che sta provando a migliorare. No, non è lui, non è il signore suo. Questo mi sta facendo solletico ai piedi. Qua ti sta facendo? Solletico ai piedi, la portantina. Infatti era più o meno il segnale di coso, di Emanuele. Come si chiama? Emanuele o Emanuele? Emanuele, detto Cingomino. Adesso facciamo riprendere la doppio room, avanti già. Ciao Tonino, mi hai sentito, cordialità, buonasera a todos. I cagnolini, bene. Tyson, bene sta. Ciao Gianni, mi hai sentito dopo tanto tempo. Sto pure quella di vederti tu. Finalmente. Ah, c'è anche Davide, chissà chi mi viene Davide, Fabio, ma lo chiamerà te e mi viene sempre Davide. Ciao Fabio, mi hai sentito? Ciao Roberto, anche a te mi hai sentito, benvenuti a tutti e anche agli ultimi tratti. C'è una gottona oggi, sono molto contento. Vabbè, dimmi già. Ma stasera tu a quadrato in versione 4, ti sei sembrato tutto da dietro. No, non mi sono mosso oggi. Stamattina sono uscito alla Lidl presto. Lo sai che apre la Lidl? No. Alle 8, attenzione che è una grande futitura quella roba. Ne ho preso due di quelle molette. Vabbè, le uso, perché non prendo una per me e una per mio cugino. C'è la gente ne ha preso sei, non una, sei. Un amico ne ha preso tre di quelle, come si chiama, quei seghetti a batteria. Sono tutti senza le batterie, compresi gli avvitatori, sono tutti senza batterie. Bisogna stare un bel attenti. Poi la batteria costa 19,90 euro, il caricatore doppio 29,90 euro, è una bella futitura. Vabbè, a noi ci serve perché le batterie ce le ho io di scorta, però uno lo sa, la gente quante ne hanno comprato convinti di usarlo ed è senza batteria. Poi risponde. Sì, lo so, io ho preso due infatti per me, uno per Gianni, poi va a casa, apro, batteria niente, sono tornato altri 19 euro, veramente quasi 40 euro perché ne ho comprato due per me, capito? Serve il cofano pieno. Scusa, non ti ho salutato, ciao Tonino, ciao Gianni, mi sembra sei entrato, Emanuele e Fabio, non ho salutato, scusate. Ciao Riccardo. Però Toni, a meno che non c'è il caricatore tuo di qualche altro apparecchio di quella marca lì, se no non te ne fai nulla al solo della batteria. No, io ho preso carica batterie più una batteria 19,90. Ma il caricatore costa 29,90. No, assolutamente, diciamo, te lo può confermare anche Gianni, perché è arrivato lo scontrino, ne ho fatto le fotocopie. Ma a posto singolo l'hai preso? Una batteria e giustamente un caricabatteria. Sì, ma il caricabatteria è quella 19,90, è a posto singolo, può caricare solo una batteria. Avete parlato in due. Aspetta, scusa, no. Quel caricatore carica solo una batteria o due batterie? Una batteria. Quello che sto dicendo io è una cosa molto fatta bene, c'ha due batterie, ci sono tutti gli indicatori a LED di carica, non è come quelli che abbiamo noi di quella serie lì, Farcomat, come si chiama? Non mi metto il nome, la marca. Questo è fatto veramente bene, però costa 30 euro. Sì, infatti io quelli non l'ho preso. Anche questo che carica la batteria a LED. Rosso può diventare verde quando è carica. Rosso o verde a seconda della... No, quello c'ha tanti indicatori, ti dà anche il coso, i cicli di carica. L'ho visto anche dallo spin, Anche dello spin c'era. Ma non erano in offerta dello spin, capito? Erano lì in vendita. E non se stavo leggendo per se c'era la batteria, ma non c'era scritto nulla. Che non ce l'aveva, non c'era scritto nulla. Oh. Vabbè, comunque Robert, non abbiamo pagati molto. 40 euro, quanto li cubi da 20 ampere solitamente? Beh, la marca praticamente è Parkside. Sì, perché sai che cosa, ce l'ha solo la Lidl, non ce l'ha nessun altro, per cui state attenti, se andate a comprare batterie da altre parti, sono dedicate a quel tipo di apparecchi. Io me ne sono comprati due, Roberto, a quel tipo. Ho notato che sul volantino c'è scritto batteria e carica batterie disponibili separatamente. Cioè, qualcuno era convinto che fosse già corredato, così è. Ciao. Infatti ho convinto, sono arrivato a casa e ho chiesto aspetta da buru sto andare a Lido a comprare tutto. Se l'ha comprato lì a Bologna, ho detto papà è inutile che stai a comprarlo tu, poi devi spedirlo, andare alla posta a fare la fila, lo compro io qua a Bologna, c'è lo stesso la Lidl e lo compro lì. Scusate, adesso avete parlato in quattro comunque, ma sulla scatola c'è indicato batteria, cioè non compresa o carica batteria non compresa, perché sennò è un po' tutti durina. Intervengo io, scusate, ma allora nella scatola è molto ingannevole perché la batteria si vede grigia, di un colore diverso, non c'ha niente a vedere con la realtà, e poi se guardi bene, ti leggi bene la scatola, c'è scritta batteria non compresa nella confezione, però uno che la vede così, con questa batteria grigia, che è fittizia perché non c'entra niente, sarebbe stato meglio non metterne niente di batteria, proprio ti può ingannare, ti ripeto, c'era uno, ne ha preso 6, io ne ho preso 2, poi vabbè io già li uso perché era uno per me, meno più cugino, un altro amico che fa il rotamatore ne ha preso 3 che fa lo sfasciacarrozze, non so se lui lo sapeva di questo, io già lo sapevo, poi c'era un'altra gente, l'ha già fatto un po' di pubblicità perché poi sono andati con mio cugino a prendere la batteria, gli ho detto attenzione, questa è tutta roba fatta Zula, le vedi gente rimettendo a posto. Ti avrebbero sparato in quel momento, Robby. Ma diciamo che non abbiamo pagato lo stesso tanto, perché se vai a comprarlo da 20 ampere costa un bel. Allora, quello che stanno vendendo 39,90 euro con la batteria costava 79,90 euro. Quindi abbiamo risparmiato, abbiamo pagato 40 euro in tutto. No, aspetta un attimo, ti costa 40 euro, più devi comprarti la batteria a 19,90 euro e il caricatore altri 19,90 euro, quindi siamo altri 40 euro, 4,7 siamo lì, 79,90 euro. Che è avanti? Che è break, avanti? Ma sentite un break, no? No, non ci ho fatto, però vabbè, ero anche distratto. Ok, riepiloghiamo, Tonino, Gianni, Riccardino, Marco e Fabio, io direi di far riprendere a Fabio, avanti Fabio. Cappa, io mi carico, è rimasto molto contento, come diceva Tonino stasera, di alcuni acquisti della Backside, ha preso praticamente una pistola per svitare i dati delle ruote nella macchina a batterie, con caratteristiche e funzionalità molto interessanti, però per altre cose, insomma, se ti rivolgi a altri marchi è vero che spendi 5 volte tanto, però la qualità già è un po' diversa, diciamocela. Ma diciamo abbastanza, dai. Io giustifico il prezzo se tu lo paghi il doppio di quello, ma se lo paghi 3 o 4 volte non lo giustifico più, perché io ho apparecchi di tutti i generi, professionali e super professionali, fatti 20 anni fa, indistruttibili, fatti adesso, dopo qualche anno ce li butti lo stesso. Poi sulle batterie, questi grandi marchi, qualche problemino in qualche modello hanno anche avuto. Io per esempio ho abitatori Wurst di ben 3 serie con problemi di batterie, però cioè roba che costa 600 euro, non roba così. Perciò ho litigato con i rappresentanti, con l'azienda, mandate dietro batterie, eccetera, poi alla fine ti rompi la scatola, lo parcheggi e quel modello capisci che non puoi nemmeno consigliarlo di usarlo. Però ci sono altre cose, tipo dei monitori o anche trapani a batteria di un certo calibro che sinceramente io li posso usare, ma se uso Backside dopo 20 giorni inizia a vedere di mandrini che ballano, batterie che scoppiano, capito? Cioè secondo come li usi le cose vanno bene, se li usi tutti i giorni in maniera professionale ti rimangono in mano, non c'è niente da fare. Ciao Fabio! Ciao Gianni! Ciao Fabio! Bella Tony, Tony ti dovrei mandare una foto. Eia, ce l'hai il mio numero, quindi. Termina il parcheggio qua. Fabio, mi hai mandato quel video, cos'è un preamplificatore a valvole, cos'è? È la mia costruzione, la mia creazione per un cliente. amplificatore originale rimasto col parametrico, poi gli ho fatto un taglio valvolare per tirare su un attimo il livello, mantenendo le valvole a metà per avere dinamica, e tutto che finisce un tiap. Devi sentire come suona quello scherzo. Infatti, mi senti up, ci hai messo? K, ho abbandonato il suo SPK, ci ho messo un T-Up. Guarda, non è solo che non vedessi, adesso gli faccio la foto e ti mando, perché ce l'ho ancora qua, non l'ho ancora consegnato, purtroppo del virus, non riusciamo a vederci a questo genere. Faccio la foto e te la mando, con queste valvoline che sono fuori. Su che cos'era in origine, cos'era un amplificatore? Era un Akai, della, praticamente non il top, non quella un po' più giù, diciamo che gli mancavano due scalini per stare sull'Olimpo. No, ho visto, diciamo, ascoltando il telefonino non si valuta, però il suono era bello corposo. Capo, poi col fatto che c'è l'assetto parametrico lascio all'utente, diciamo, la possibilità di personalizzarsi un po' la curva, capito? Cioè non tutti sono audiofili che ascoltano con i toni a zero, che vanno a sentire certi particolari. Questo cliente ascolta musica jazz, gli piace un certo tipo di equalizzazione, non ho molto da criticare, ognuno ascolta la musica come gli piace. Io l'ho fatto il parametrico e il parametrico prima di lasciarmi lo devo testare, visto che era privo di rumore, privo di difetti, non taglia tutto, aveva niente, e detto basta, glielo lascio, così si può giocare con le vette. Sì, sì, interessante, dai. Ok, facciamo riprendere a Riccardino, avanti Riccardino. Meno male, sono riuscita a riprendere, va bene, perché Fabio, se puoi, mandami anche a me la foto che sono interessato a vederlo. Cappa, adesso la faccio e me la mando a te, Roberta. Adesso ti mando due foto io di due cose che ho a casa, se ti piacciono. Drogati. Su. Gianni, ciao Roberto, Gianni ci sei? Eia! Ah, te la glicemia, 246, dopo aver mangiato la pizza. Cos'è? Scusa la fila, che sono il mio magazzino. Mi è sempre sparato in radio, non si capisce niente, che c'è roba. Cos'è detto, Lu? Ho detto, dopo aver mangiato la pizza, mamma, la glicemia 246 alta. Penso di sì, guarda, non è che sia esperto. Chiedi a Gianni, che lui è molto più pratico di me, ti dirà qualcosa di preciso. Penso tanto alta. Questo chiede a Gianni, roba, non a te. La devi misurare dopo un'ora e mezza, due ore da quando mangi. Non la puoi misurare subito, se la misuri subito non hai il tempo di assorbire di tutti. Dopo due ore. Già, allora ho mangiato che erano le 7:30, sono 9:30 qua, sono due ore passate quasi. Allora è alta, perché non c'è la glicemia quanto deve essere, no? Massimo, proprio andando male, 120, 125, proprio andando male. Se no dovrebbe essere 99 come massimo, però anche 120, 125 per un diabetico va anche bene. Ma non la mia, quella di mamma. Eia, ho capito. Vabbè, non lo so, cosa ha mangiato altro prima, questo non te lo so dire. Vabbè, dai, rimango in ascolto perché la mia sveglia suona alle 4, dai. Riprendete voi, rimango in ascolto. Ma a pizza devi andare? No, campagna. Cappa, fare il contadino. Fa un po' di gioca. Vabbè, andare. Avanti tu. Già, se vuoi davanti così, sennò te la toccare a Ianna. 130, 135, può anche andare bene, tranquillo, dai. Vale 200, 200, beh. No. Chi è? Che sia, l'uomo nero. Mamma mia, c'ho paiura, l'uomo il bobotti nero. Ciao Luca. Io ti saluto Luca. Fabio, l'ho vista la foto. Cappa, hai visto che carino che con queste valvoline che vengono fuori? Bello, sì, mi piace molto. Ne avevo visto una cosa del genere in un posto, adesso fammi ricordare dove, però non era da paragonare a questo, era un giocattolino. Niente, è venuta questa idea un po' così, vabbè, mi è venuta in mente perché ho visto i gusti del cliente, capito? Lui voleva così, voleva colà, quello era già un suo amplificatore, ascolta, dammi l'amplificatore un attimino che ho un pensierino, e gli ho fatto una piccola modifica, piccolina. Cosa? Ma lo sto guardando, aspetta, mi piace molto, lo sto guardando bene. Aspetta che sto facendo la foto a Roberto, avanti Gianni, ti trombito, avanti Taglio, Luda, Marco Lugani, Torino. Ehi AK, dimmi tutto, qualche novità? No niente, l'ho aperto, quella resistenza che vedi di lato, praticamente diventa rovente. E quello bisogna andare a vedere lì, prima di passare alla ricezione bisogna andare a vedere lì, perché non può stare così, capito? C'è qualcosa lì vicino a questi riconduttori che vedi, quelle tre soldature lì a fianco alla resistenza, vedi che scaldano tantissimo, c'è qualcosa qui in zona che dà problemi, sì, qualcosa in corso per essere, e credo che pure quel finalino che c'è lì a fianco sia andato, però quella resistenza tocca a temperature allucinanti. C'ho un puntino nel dito perché mi ha bruciato quando l'ho toccata. E comunque, se non ne vale la pena non fai niente, capito? A chi sei un bello danno la carabiti, mi lo tengo per bellezza, boh. No, lo guardiamo, cerchiamo di capire. Io lo scopo ce l'ho sempre sul riuscire a risolverlo, riuscire a capire esattamente che cos'è, e così poi vediamo. C'è da togliere quel finale, capire se quella resistenza è la sua, forse no, e riuscire a recuperare lo schema e iniziare a fare un paio di misure. Ci sono purtroppo buone possibilità che sia una modifica a quella, capito? E quella le modifiche poi fanno danni. Ok, va bene, Roberto, ripeto, puoi far girare Ginko che è il parcheggio. Ah, c'è Ginko, dai, facciamo rientrare su, avanti Emanuele. Ginko. Cicomino. Fabio. K. L'hai visti quelli che ti ho mandati? Soprattutto il primo. Soprattutto quel capolavoro del primo, quello è veramente un bel apparecchio, quello non dico va bene, perché vabbè, poi tu lo sai cosa ascolto, come faccio, però è fatto veramente bene e si avvicina al suono, ad apparecchi veramente importanti, cioè oggi come oggi averlo e farlo girare con un vinile, con delle casse monovia o con due vie strette, ci siamo avvicinati al concetto dell'audiofile stereo, proprio stereo. Sì, se no, perché ce l'ho. Penso che in Italia ce ne sono ben pochi, in Sardegna non credo che ce ne siano di quelli, non perché ce l'ho, ripeto, quello lì era un coso, un demo di coso, di Paolotto, ce l'ho tanti anni, quello lì ce l'ho, allora, quanti anni ce l'avevo? Se, diciamo sui 35-38 anni ce l'ho quell'apparecchio. L'altro è un giocattolino, anche se è una cosa enorme, quello il secondo che ti ho fatto vedere, ma quello lì è eccezionale, c'ha un suono da paura. Che ripeto, all'epoca era il top di quella linea normale, poi dopo di quello c'erano gli stadi pre e finali separati, era il top di quella linea lì, e se tu lo vedi come è costruito dentro ti metti le mani in testa di quella roba lì, le predisposizioni che c'ha tutte sdoppiate, tutte le funzioni ce le ha sdoppiate, le uscite e gli ingressi sdoppiati, e poi c'è addirittura la possibilità di inserire un riduttore di rumore, c'era la possibilità di mettere la scheda Dolby dentro quell'apparecchio lì, e in più le uscite per l'oscilloscopio, qua dietro se lo vedi, cioè adesso magari con questi impianti on filter ci sono tutti, con tutti questi ingressi eccetera eccetera, ma all'epoca c'erano ben pochi di amplificatori con quelle caratteristiche. È eccellente come apparato, c'ha un suono da paura, se tu lo senti un giorno, se capita te lo farò sentire, da paura. Vabbè, no, ma io l'ho apprezzo perché lo conosco dentro, capito? L'ho preso per questo motivo, perché a volte c'è di qualcosa che suona anche bene, puoi analizzare e capisci che ci sono molte falle, cioè che se tu ce l'hai a casa e lo ascolti tutti i giorni con un disco diverso, con un CD diverso, lo sottoponi a qualche prova, gli cambi un paio di carte, eccetera, eccetera, una volta che l'hai visto costruito dentro dici, questo qua, se non oggi, se non domani, se dopo domani, gli trovo qualcosa che non va. Invece quello va come costruito, lì sono sorti verdi, lì prima che la Manance diventasse Philips, voleva alzare il tono in una certa maniera. Gli unici concorrenti, cioè gli unici che erano così aggressivi a quei livelli, erano praticamente la Grundig, e poi stava venendo fuori il colosso della Matrucita Electric con le certe serie speciali della Tecnica. Era una gara, vabbè. Comunque non c'era dentro una scheda Dolby per la riduzione del rumore, eh? La scheda Dolby era un processore, capito? Un MPX, potevi aggiungere, costava 4,2 amplificatori normali. Non so se il problema dipende da te, però sei uscito a scariche l'ultima notte dalla tua voce. Guarda un po', che magari c'ho l'alimentatore che scalda. Com'è? Sono ancora caldo? No, tutto a posto. Ma poi ti posso dire, se lo usi in quadrifonia quella roba lì, mettendo 4K, se c'ha la dimension, c'ha una funzione dimension, ti dà un senso di spazialità impressionante. Io lo sto usando in serio su due canali, però se lo usi in cose, in quadrifonia è un bel effetto, dai, funziona più che bene. Ok, facciamo riprendere anche gli altri, sennò sembriamo sempre noi gli ingordi del monopolio della frequenza. Vai Riccardino e poi Tonino. Sono appena tornato, mi sono incappucciato con la felpa. Scusate, va bene, facciamo rientrare a Tonino, avanti Tonino. Allora, Riccardino, c'è uno spettacolo, cacca. Poi cambia anche le voci, non hai visto? È cappa, la voce subisce le emozioni, che è una cosa molto carina, così a spontaneità, guarda, fenomenale, ne vogliamo anche altri simili Riccardino, ma che non gli facciamo concorrenza, perché lui ormai era la frequenza. Guarda, a me, io se avessi avuto un programma radio quando lo facevo all'epoca, l'avrei messo vicino come accoppiata, cacchio, ci siamo fatti un bel risato. Cappa, la radio non è mai la voce di Riccardino, non è mai di persona, non è neanche mai in radio. Se tu vuoi dire i soliti mixer dalla radio, quello che mi faccio una riequalizzazione, quelli un po' fissati, no? Quando magari basta la premessa la compressione, il progetto di acuti, che diventa quasi universale la taratura del microfono. Ma se tu proprio te lo posti in radio di casino, come voce modulata, secondo me ne serve tira. Sicuramente, uno quello che c'ha la radio vicino a te, quello era tutto di bellissima, cazzo, è tutto pieno di filtri, di equalizzazione, per forza che esci bene, perché io lo conosco di persona, la voce non è quella naturale. No, ma guarda che io la raccolta di tutti gli stacchetti di questa radio, capito? C'è lui che a un certo punto fa 95,500 e 102 virata nel stereo. No, non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Adesso, prima era un po' più complicato manipolare, però lui era uno di quelli che ha manipolato tanto. Adesso puoi fare quello che vuoi, tutto col digitale, fai quello che ti esce. Ma un consacro dice, cavolo, c'è una voce bellissima, sai, cacchio. Anch'io me la faccio la voce di Alberto Lupo se mi metto. Se mi metto, non mi provocate che metto la voce strana. Ho fatto una canzone, non so se è rimasta in memoria, non l'ho registrata. Tutto fatto con la bocca, ok? Perciò ho fatto punt, così. Poi ci vado sopra, ehi, poi, aio, dovevi sentire così uscito. Un pezzo di cortex, l'ho fatto con la bocca e col dito. Ma le immagino, sono cose carine. No, anche io mi divertivo quando c'avevo la piccola stazioncina, c'è un sacco, c'è tutti gli stacchetti, tutti gli effetti, ma lo facevamo in analogico. Adesso con il digitale, cacchio, puoi fare quello che vuoi, col computer puoi fare quello che vuoi, ed è quella la bellezza. Prima tutti gli stacchetti magnetico in coso, dovevi tagliare il pezzo, unire e fare, era un po' difficile farlo. Ok, avanti di nuovo Tonino, se c'è, perché poco fa è stato chiamato e non ha risposto, e poi riprenderà già. Roger, perché mi hanno chiamato, ma basta, è il mio report. Benvenuta, ok, tutto a posto comunque. Avanti Gianni. Io stavo rispondendo invece ai messaggini e mi ha beccato in pieno. Vabbè. Vabbè, ma che cosa stavi riferendo? A piatti oppure che cosa? O amplificatori, quello che fa paura. Amplificatore. Ah, no, perché sento fabbricato il vinile, pensavo che fossero i tecnici come piatti. Ma io come piatto dicevo, vabbè, l'amplificatore c'è una mezza cagatina, l'ho comprata alla GBC, una scatoletta piccola, però che faccio robe per amplificare il piatto e basta. Ah, non certo la grandezza, mi pare che l'avevo già detto, quelli ti ampli, 5 più 5 watt, se tu lo senti funzionare si caga amplificatori che costano 50-100 volte di più e sono 5 watt, però già lo conosce Fabio, l'ha montato su quel giocattolino, che ha giocattolino relativo, per, non per disprezzare, nel senso, il giocattolino intendo quando fa un lavoro, un bel lavoro, e ci ha lavorato dentro, ci hanno dei suoni da paura. Oh, no, Fabio. No, guarda, come ti amp, sinceramente, si concordano, lui è valvolare, che tra l'altro qui sul banco mezzo aperto perché adesso lo richiudo, ho fatto due lavoretti e ce ne sono altri da fare, solo che la faccio a rate perché è veramente lungo e seccante, poi sono di quelli precisi, con le soldazioni tutte papà, capito? Faccio dopo un po' di stufo, gli faccio una cosa di stufa, bisogna capire che poverino è fatto a mano nel 71, perciò i suoi anni ce li ha. Però tra lui e T-Amp non so dove allungare la mano, davvero, quella cassa di schedina lì da due soldi ha distrutto veramente gente che ha speso 50.000 euro a farsi di pianto stereo. Sì, io infatti ce l'ho tantissimi anni, sono stato colpito da una recensione di quelli, come si chiama, c'è un affare via internet, un forum di appassionati, quando ho visto la recensione, no, questo me lo compro, l'ho fatto arrivare dagli Stati Uniti e quando l'ho visto, infatti c'è un giocattolino a massa grande, hanno fatto la recensione, hanno fatto delle comparazioni, già lo saprai pure tu Fabio, con apparecchi di decine e decine di migliaia di euro. Li ha cagati sotto a molti amplificatori. Per avere molto meglio è difficile, molto molto difficile. Io ne ho tre di quelli, c'ho quello il primo a 5 watt a batteria, poi ho preso l'altro un po' più grosso e poi l'altro più grosso ancora, quello da 30 watt. Ho fatto delle comparazioni con un valvolare, mi avevano dato un amplificatore finale americano Adcom, che è un ottimo amplificatore, ti posso dire non ho notato grandissime differenze, addirittura quello lì per certi versi era anche meglio. Guarda, il discorso è l'alimentazione. Io lì non potevo giocare più di tanto perché ci ho lasciato tutto l'amplificatore dentro, tranne lo stadio finale, ma non avevo spazio, perché mi sarebbe stato piaciuto prendere un po' di grass, buttare un regolatore, un trimmer e potergli dare 12,8, 12,9 volt con un trasformatore normale. Invece, anche perché comunque non c'era budget, non c'è guadagno in quell'apparecchio che hai visto, avevo così al volo con il Rich Mode che ho provato con lui, con altri apparecchi eccetera, e a orecchio sembrava che non desse chissà quali problemi. Poi misurandolo ho sparato il volume a manetta, ho fatto tirare il T-Amp quanto poteva, con delle casse da 120 RMS, fino quasi a sentire i picchi un po' schiacciati, che ho visto che non perdeva, che non andava in ripple, che non perdeva tensione, capito? E perciò ho deciso di metterci quello. Ma se tu a un T-Amp gli dai 5 ampere, belli cazzuti, apri la scatola, gli togli quel protettore del cavolo che c'ha, gli metti due cavi da 2 metri, uno per il positivo e uno per il negativo, gli togli quegli spinatori del cavolo che c'ha economici, gli metti qualche aggancio RCA come Dio comanda, magari placcato oro, gli togli quei cavetti del cavolo, gli elementi schermati e poi soprattutto gli cavi le bobine, visto che c'è 4 bobine dentro. Quale 4 bobine? A posto di essere inserite gli metti in aria, però poi devi schermarlo bene intorno, se no ti fa MF, collettore CD e con altri apparecchi. Allora, veramente, li togli tutti quei piccoli difettini che c'ha, tipo sistema di appena la curva di medio bassi, che qualche volta deficita tra il secco e il morbido, c'è una parte in cui sembra che non reagisca e dipende dall'alimentazione. Alcuni acuti non arrivano perfetti in certi momenti e dipende dagli spinotti, capito? Cioè, ma lui, quella schedina lì, fatta bene, è girata bene, secondo me ammazza chiunque, secondo me mi butta a terra anche il valvolare. Sì, ma l'hanno fatto negli Stati Uniti, li stanno vendendo sempre di più, messi in scatola più grande, più appariscente, eccetera. Hanno fatto molte di queste modifiche che hai detto tu. Io la batteria non l'ho mai provato, ripeto, non ho avuto modo di provarlo. L'ho messo con un alimentatore discreto, dai, da fare un 7 ampere, l'ho messo tanto per provarlo, il piccolo parliamo, il primo, la prima serie, che secondo me è il migliore di tutti, quello lì. L'unico problema è che non ho capito per quale motivo che devi stare almeno mezz'ora prima di farlo rodare, cioè di ascoltarlo, perché cambia da giorno alla notte dopo mezz'ora con l'apparecchio. Guarda, io ho le varie versioni, ma neanche in versioni originali, quelli in case, eccetera. Ho per esempio uno piccolino Leppi, ed effetti cambia un po' la curva, anche secondo come lo stoccano, anche il layout dei componenti nella scheda, cioè spostando i componenti di posto nella scheda, mantenendo tutti i valori, qualcosina glielo cambia, perché è piccolo, tra trattina è troppo piccoli, fa una comparazione digitale troppo stretta, basta poco per cambiare le cose, capito? Poi chi ha un orecchio veramente, magari anche superiore al tuo, ma anche al mio, non è che penso di averlo molto superiore o comunque superiore al tuo. Io ho dei clienti che fanno paura, Roberto, ci prendono, ci mettono in tasca e si mettono a ridere, capito? E quando mi senti parlare di queste cose non è che tengo la portante premuta per 50 secondi, no? Questi iniziano a parlare di un solo particolare del TAP e rimangono tipo 3-4 ore e non perdono fiato perché sono appassionatissimi e correttissimi in ogni cosa. Verità, la volta che ha trovato meglio il TAP davanti a me stava funzionando con il Duracell. Facciamo i prevegliati, se no magari qualcuno ci spara da lontano. Avanti Tony, scusatemi, ma non può. No, sto ascoltando, non c'è problemi, Robè, che cavolo. Bene, Riccardino, riprende pronto. Che sono? Io riprendo io, fra un po' vado a mangiare e poi torno subito, resto altri 5 minuti che poi, come detto, vado a mangiare e poi verso mezzanotte inizio a prendere la carriola. Ah, non li puoi dire direttamente a fare la cucina dentro la tua stazione, a tua mamma vicino ai fornelli, così ti giri un pezzo di gozzo, di coscia di pollo, fate patatine. E anche un lettino si può mettere. Poi il frigorifero ti metti qualcosa di fresco vicino. Un capriolo, siamo a posto. Mia figlia, io. Mia Antonello. Saluto a tutti, comunque, bene, ascoltate, là. Cazzo di radio, ogni volta che attacchi tu mi fai soldo, a me. Accidenti, grazie. Oh, come schiacci la portante tu? Perché non sono affetto dai chicomori. Cosa hai detto, Rita? Sono affetto dai chicomori. Affetto da piccomori, cosa vuol dire? Chicomori. E cosa so? La sindrome giapponese di quei ragazzi che ci chiudono in stanza e gli fanno portare la roba a mangiare ed è piena di spazzatura, quelli non si alzano mai dal letto, restano sempre fermi. Non lo sapevo, dai, non sono aggiornato. Ogni tanto c'è una nuova. Doppio rumo a te il micro. Io. E adesso mi metto lì che fa poco perché sono di boia. Stavo prendendo il sonno, oggi non sono in vena molto, non ho dormito dopo pranzo perché sono uscito, quindi non ho riposato. E sono un po' con la biocco. Gianni, ma c'ho una taglia. E dormito vicino a me, ti faccio una fotografia e te la mando. Lui, Lucio, manda. Quell'altro invece è Fabio, l'hai visto quello più grosso? Quello è il famoso pezzo quasi unico. Quello lì l'ho beccato a un prezzo ridicolo, in un mercatino. Ma è enorme, guarda, non è fuori standard, mi sa che è una 50 cm di larghezza, è una cosa che in foto non rende, ma se tu lo vedi è enorme. A parte che è un bel pesante, pesa 25 kg. È un sito amplificatore, c'ha tutte le cose possibili e immaginabili, infatti si chiama Kenwood Compositore, quello lì, perché c'ha tutti gli effetti, con generatore di ritmi, riverberi, ecco. Cioè, addirittura c'è anche il timer, se lo noti c'è anche il timer per l'accensione, che puoi attaccare chitarre, microfoni, cose che non puoi attaccare, però non è un granché, a livello di suono è proprio, non dico una cagatina, però non c'ha niente a che vedere di cosa stavamo parlando prima, è soltanto un apparecchio tipo karaoke moderno che ci puoi attaccare, quello degli anni 70, 75-78 mi pare l'hanno fatto, e l'evoluzione, cioè l'antenato degli attuali karaoke con le torri che ci metti tutte le cose. cose eccetera, c'ha tutto in una volta, l'ho messo tutto in un unico apparecchio. A fa ridere quando metti i generatori di ritmi, che puoi metterli tutti i tempi, le velocità, le basi, c'ha un sacco di cose, e poi c'ha tutto regolabile, i riverberi, l'effetto eco eccetera eccetera. C'ha in dotazione, c'è anche il comando a pedale per i microfoni eccetera. C'ho le istruzioni sue originali che mi fanno ridere, sono in coso, in carta oliata le istruzioni di quell'apparecchio. Ehi, è un apparecchio molto particolare, dai. Un tentativo, quello è un tentativo, per la fede, se hai un locale, o magari se hai un salone in cui vuoi fare le feste, hai un po' di soldi da spendere, al posto di mettere un microfono con un amplificatore, una chitarra con un amplificatore, prendi quello e ti prospettavano grandi cose. Beh, in effetti, se poi bevi due bicchieri, non è che stai a pensare che il suono non torna, capito? Sì, infatti è una cosettina così, per fare un po' di musica con gli amici eccetera eccetera. A me, chiaramente l'ho preso perché era quasi un regalo, però un paio di volte l'ho acceso, l'ho messo dentro un altro mobile, in una camera di mia figlia l'avevo tenuto, ma poi talmente grande non l'ho tirato via, adesso l'ho messo tipo sopra la mobile perché non so dove mettermelo, è troppo grande. Ecco, ma si vede le monopoline, le spaziature che non sono 43 centimetri. Sì, sì. Fabio. K. Mi raccomando, per domani sera col microfono, già lo sei, te l'ho svegliato, no? Sì, sì, stasera prima di seguire da qua. Mi guardo i contatti e vedo come la ricezione, se non sarà di la così. E fischia l'orecchio tuo nonno? Cello. Magari gli ha dato anche un altro microfono. E poi non lo so se ne ho con questo spirotto, mi devo frugare, solo che è la parola, siccome andare a Torino oggi io che prendevo lo spirotto, gli ha dato un microfono normale, capito? Comunque sì, da domani sera ci incrociamo, te lo metto in una bottiglia. Ok. Cioè io vorrei capire se qualche persona non sente a Fabio, se c'è silenzio con tanti cb che siamo in questo canale, vuol dire che qualcuno sta parlando, e non è che continuate a fischiare, a fare tanto casino. Stavo sopra. Sopra il limite, ma comunque sia, quello che... No, qua passa tranquillo Fabio, io non ho sentito niente. Ma cos'è? Mi stavo dedicando una portante. Ma sono così importante per avere una portante? No, c'era uno che ti sovramodulava fischiando. Rompetere i cattoli. Importante, non importante. Un ignorante. Per avere una portante. Fabio, in Latina, passa qua, ti prendi il 100 watt e non ci sono problemi, così almeno soffri di problemi, i casini più che altro. Oh, io non so, ma se c'ho, se lo sai cosa c'ho qua, ma secondo te, io devo uscire con 4 watt, se poi non piaccio, vabbè, rimango poi nascosto, mi piace anche ascoltarmi. Il fatto che sei geloso, cioè non tu, no, naturalmente gli altri sono gelosi, capito? A palestra c'è un po' a scariche, sicuro? Adesso a posto, sì, sto a posto adesso. Vabbè, come l'ascolti? Boh, secondo me deve abbassare, per me sei sempre troppo forte, Antonio, sembra che stai parlando con il microfono attaccato alla bocca, tutto rumoroso, sento ombre di daburu. E adesso come fa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? Rispetto agli altri, sì, il doppio più, vabbè che sei attaccato a me, ma cacchio, c'è una radio, ti spacca tutto. Appunto, visto, sono l'unico CB che ha gli unici microfoni che spaccano tutto, anche lì, ma vabbè, non ti voglio dire niente. Vabbè, se non è te, piglio l'altro microfono, così me lo uso quello. Siccome adesso è tardi, non posso scendere a casa di Giovanna e prendere l'altro microfono a un certo punto, quindi a un certo punto accontentati di quello che c'ho. Allora, se esci così va tutto bene, ma cacchio, se tu che appena appena il microfono spacchi tutto. C'hai il microfono, c'hai. Il microfono che c'hai in mano, perché comunque ti chiedi dentro i rumori, ogni volta che schiacci l'importante sembra che stai tirando tipo un lenzuolo sul microfono, fa tipo... E poi si sì, ha capito, proprio tira un bel, la situazione fa il diavolo. Prego. Cosa posso fare? Avanti Becche. Bitoccino. Buonasera a tutti quanti, componenti del canale 10. Da questa parte, Super Leoncino, che vi super saluta. Super Bidoncino, ciao Bidoncino. Ciao Tonino, ciao Antonello, ciao Roberto. Ciao Giuseppe, così Giuseppe Leoncino, se mi ricordo bene. Basta.